lesang ku ema di kong sa di traja di bua kama bito abatu luna bombe lesang ku ema di kong sa di traja li bua kama bito abatu luna bombe. Libua kama bito abatu luna bombe.